alla situazione che abbiamo denunciato è di abbandono totale, nel senso che abbiamo potuto constatare che la condizione dei minori è assolutamente non dignitosa. Abbiamo registrato anche la mancanza di finestre in alcune situazioni, in alcuni alloggi, e poi questi materassi, in molti casi che mancano di letto e quindi sono appoggiati a terra, con le conseguenze che lascio immaginare a voi. Insomma. E poi insomma scarsa pulizia, scarsa attenzione, anche la mensa molto sporca, cioè una situazione di abbandono che richiede un intervento a tutti i livelli. Ma da cosa è determinata questa situazione? Noi segnaliamo, diciamo, questo sovraffollamento da tempo, perché c'è stata l'apertura del secondo piano detentivo e questo ha comportato di fatto un raddoppio delle presenze. Ovviamente un conto è gestire 20-22 detenuti, un altro conto è gestirne il doppio. E poi con lo stesso numero di operatori, anzi qualcuno in meno, con lo stesso numero di educatori, anzi molti in meno, con lo stesso numero di assistenti sociali, che però nel frattempo sono andati in pensione e non vengono sostituiti. Una situazione, diciamo, di raddoppio di tutto, dove però i servizi non sono raddoppiati. Cioè sono aumentati, si sono raddoppiati i minori, gli ospiti, però non è aumentato tutto il resto, è rimasto praticamente invariato. Comunque è una struttura che ha delle dimensioni limitate e quindi non la puoi far crescere all'infinito questa struttura, ha degli spazi ridotti, talvolta angusti, per cui è stato un azzardo aprire un secondo piano detentivo, insomma aggiungere ospiti, ma non in misura ridotta, c'è stato un incremento consistente, esponenziale, e quindi ecco che adesso registriamo questa situazione qui, perché ovviamente non si riesce a seguire, ad avere la stessa cura che si aveva in precedenza. E poi le risorse, cioè c'è un tema di risorse, perché ovviamente se tu vuoi rispettare la Costituzione italiana, renderla viva nei luoghi della sofferenza, tu ci devi investire dei soldi, che non è un costo, sono investimenti per garantire dignità a chi devi ospitare e condizioni di lavoro decenti, dignitose a chi deve prendersi cura della struttura. Noi abbiamo registrato, diciamo, questa doppia sconfitta, cioè i minori di fatto non sono messi nelle condizioni di potersi rieducare. Da un lato, gli operatori tutti, quindi polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, che non riescono a fare bene il loro lavoro. Le soluzioni passano per, come dire, trasferimenti, comunque alleggerire l'affollamento? Sì, assolutamente sì. Poi chiaramente tu mi dirai, sì, alleggeriamo Bologna e aumentiamo da altre parti, no? Probabilmente bisognerebbe anche pensare delle misure alternative alla detenzione. Non va assolutamente bene quello che si sta affacciando in termini di inasprimento delle norme e dell'introduzione di nuovi reati che colpiranno da qui a breve anche i minori, o se non già non sta avvenendo i minori, perché questo rischia ancora di più di appesantire le strutture della serie, li butti dentro e butti la chiave, ma non è questo lo spirito. Cioè non deve essere questo lo spirito, soprattutto nei confronti dei minori, che vanno recuperati, perché è giusto così, questo dice la nostra Costituzione, questo dice la Carta Repubblicana, a cui tutti dovremmo ispirarci.